Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati anche questa sera 18:20:30, si può fare, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta. Cominciate subito a prenotare i vostri interventi. Se volete invece interagire in diretta con noi, ci trovate su Twitter, l'account del programma è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi, c'è anche il nostro stagista opinionista Carlo Gabardini. E il mio Twitter è @ Carlo Gabardini. Chissà se Gasparri stasera ci regala qualcosa. Adesso in questi apro giorni Twitter, twitta di tutto Gasparri, e poi ti dico. Allora, cominciamo subito con i titoli di Sky TG24. Sentenza Mediaset, arrivano le motivazioni della Cassazione. Berlusconi fu ideatore e mente del sistema di illeciti. L'IMU scompare, dal prossimo anno arriva la service tax. Alfano, il prossimo obiettivo è scongiurare l'aumento dell'IVA. Siria, il cerchio si stringe intorno al regime di Assad, il Pentagono invia la quinta nave, Cameron dice le prove ci sono. Aumentano i prezzi dei carburanti, calano i consumi, secondo l'Unione Petrolifera la domanda è diminuita di quasi il 5%. Saranno si costituisce il killer della gioielliera uccisa nella cittadina lombarda, volevo rapinarlo, ho perso la testa, dice. Champions League, dopo la vittoria del Milan ieri sera, in corso a Monte Carlo il sorteggio della fase a gironi. Passe sui sogni, passe sul gioco, passe sull'acqua, passe sul fuoco, passe sulle case, passe sulle tombe, passe sui falchi e sulle colombe, passe sul gas, passe sul pane, passe su tutto quello che ti rimane, passe sulla benzina. Per noi ha il valore di una missione compiuta. Abbiamo cancellato l'IMU per il 2013 e nel vocabolario del futuro i testi di diritto tributario, ma anche i documenti dei commercialisti e delle famiglie italiane, non troveranno più scritta la parola IMU. La riforma, il superamento, porta oggi alla fine dell'IMU. Dal 1 gennaio 2014 nasce la service tax, che unifica e che tocca la TARES anche, e quindi è un intervento che riguarda i servizi e non per l'appunto il concetto di proprietà dell'abitazione, così come fino adesso era riguardato per l'IMU. La vedevo con quella faccia un po' sofferente, abbiamo una tassa in meno, sei contenta? Poi, la mia mimica. Stiamo a discutere. Allora, guardi, le posso garantire, glielo garantisco stasera perché stanno mangiando, no, e dicono ma... bene, domani abbiamo glielo garantisco soldi perché per la vedo, glielo garantisco perché magari la vedo danno, glielo garantisco perché la vedo preoccupata. Sono serena, mi permetto di dirle però che abbiamo creato ulteriori problemi proprio rispetto all'IMU. Le scarpe, passe sullo smoking e sulla canottiera. Io le vorrei dire solo, veramente, guardi, glielo dico. Comincia anche lei a godere un po' del bene che facciamo agli italiani. Guardi, chi gode è un po' più contento. No, allora, su questo io dalla vostra parte non ho dubbi che rispetto al godimento si stia sempre meglio. Però noi sì, perché guardi, siamo persone che non sappiamo di altre. Le sto dicendo. Sappiamo gioire. Le sto dicendo. E oggi certo, gioiamo prima per di tutto, gli italiani. Il partito dell'amore, me lo ricordo bene. Capisco però mi permetta, che voi invece avete partito mi permetta, dell'odio. Mi permetta solo una cosa. Io le permetto tutto. Gustoso questo battibecco tra Serracchiani e la Santanchè. Sapete molto. Godere, no? Sappiamo gioire, dice la Santanchè. Il fatto è questo, Gabardini, che non si capisce più nulla su questa IMU, al di là dei tecnicismi. Alfano dice, non c'è più l'IMU. Letta dice, sì, ma c'è la service tax. Una tassa in meno, sì, ma avete creato altri problemi. Gustoso. E nessuno parla di ICI, tra l'altro. Perché dovrebbero? Ma così, per buttarla dentro c'è nel ballerone. C'è anche la TARES. È gustoso, anche se a quest'ora i giornali ormai sono acqua passata. passata, però andare a vedere le interpretazioni, le prime pagine, l'apertura, perché si oscilla. Allora c'è il Fatto Quotidiano che dice: Letta cambia nome a Limo, è uno spot per Berlusconi, e questa è una tesi. Poi c'è un'intervista di Storace che dice: attenzione, Letta ha incastrato il Cavaliere, ora infatti la crisi di governo è diventata impossibile, perché anche questa è un'interpretazione. Letta, certo, diabolico, ha dato Limo al PDL e adesso si tiene incollato. Di buona che adesso Berlusconi non possa dire mando via tutti perché gli hanno concesso l'IMU. E infatti questa è la sintesi di Libero, che dice: Silvio vince sull'IMU ma ora è disarmato, e quindi è perfetta. Ma la più bella di tutte è la copertina, la prima pagina del Manifesto, che con la foto di Letta e Alfano che si guardano titola Immobili. Mobili perché? Perché è un po' il gioco delle tre tasse. Assolutamente. E poi perché il Manifesto come titoli, diciamo, sono proprio imbattibili. Non è cambiato moltissimo, insomma. Cioè, nel senso, non c'è più l'IMU, però c'è la service tax. Quindi, di fatto, è un pareggio. È un cambio nome, direi. 800 24 00 24. Sentiamo qualche altra voce a conferma di tutto questo. Alfano: mattino faccio fatica a nascondere la mia grande soddisfazione, dunque non la nascondo. Questa sera i telegiornali e domani i giornali porteranno nella casa degli italiani, nelle case degli italiani, una bellissima notizia. Peraltro una notizia non frequente, e cioè i nostri concittadini, gli italiani, dovevano pagare una tassa e non la pagheranno. Bisognerebbe evitare veramente la propaganda che facciamo, ho sentito da... Facciamo vedere se la regia si è andata, facciamo vedere noi. Abolita l'IMU titola il giornale. È vero, abolita l'IMU. Non dice il giornale che coloro che pagavano l'IMU pagheranno appunto una service tax. Hai capito? Non si capisce veramente perché non è, sono niente proprio di meno che il vice premier e il vice ministro dell'economia. È commovente comunque l'euforia di Letta, devo dire. No, scusami, di Alfano che ieri infatti ha twittato a raffica 40 tweet. È commovente l'emozione di Alfano, è tanta, però sì. Invece ti rattrista la Fassina, che aveva sempre detto: non dobbiamo ammolire l'IMU perché non ci sono i soldi, bisogna fare prima altre cose. Invece l'hanno abolita e sembra che lui che avesse fatto male i conti. È un po' rattristato e ci ricorda che c'è la service tax, certo, in arrivo, e non è mai una bella cosa da dire quando c'è, però questa è la verità. Per tirare un po' il fiato, sentiamo a Virus ieri sera PG Battista del Corriere, visto che il ministro della Salute Lorenzin sta lanciando forse una l'ennesima crociata sui divieti, divieto di fumo in auto o altrove, sentiamo l'inno alla gioia degli anni 60 di Battista. No, io non vorrei però neanche che ci fosse un piagnisteo sui tempi che viviamo. Appunto. E su quanto era bello ubriacarsi prima, invece adesso tutto è diventato più corrotto, degradato. Io negli anni 60, quando un'epoca di prosperità, non un'epoca di crisi, a Forte dei Marmi, alla capannina, si andava a dormire alle 6 al mattino, ubriachi. Negli anni 60 si facevano hashish, marijuana, le pasticche, on the road, per cui io francamente questa cosa di dire noi eravamo, noi ci ubriacavamo soltanto nelle feste di compleanno, non saprei. No, io sono d'accordo sul fatto che bisogna divertirsi un po' nella vita, quindi bisogna farne di cose e di esperienze, però devo dire che questo cliché di quelli che negli anni 60 si divertivano e facevano tutto e adesso non si fa più nulla ha un po' rotto le scatole, Gabardini. Ma non ho capito se la questione era questa, che adesso non si fa più nulla. No, lui diceva facevamo sì, lui anche se noi la prende. Ai tempi. No, se la prende con la Lorenzini, ministro della salute, che vuole vietare il fumo in auto, sì. E sai che ci sono tutti i momenti crociate contro quello che fa male. Non si può fare questo, non si può fare. E lui dice: ma lasciateci in pace. Noi negli anni 60, tra l'altro, mi facevano notare dalla redazione che Battista è tipo del 55, lui negli anni 60 aveva 12 anni, 15 anni, cosa? Quindi non è possibile che facesse queste serate. Però, beh, insomma, per farsi ricordi, le canne bastano 15 anni, presto, direi. And now, the good news! A Modena nasce Portobello, il supermercato sociale dove i disoccupati trovano generi di prima necessità gratis in cambio di qualche ora di volontariato nel supermercato stesso. Solidarietà e dignità qui vanno di pari passo, il passo del baratto. passe sul gioco, passe sull'acqua, passe sul fuoco, passe sulle case, passe sulle tombe, passe sui falchi e sulle colombe, passe sul gas, passe sul pane, passe su tutto quello che ti rimane. Berlusconi è sotto processo per la vicenda Ruby. Probabilmente, diciamo, questa vicenda sta generando un altro processo per corruzione dei testimoni, perché risulta che lui li abbia pagati, diciamo, fino all'ultimo. È sotto inchiesta e c'è la richiesta di processo a Napoli per corruzione di parlamentari, che forse è uno dei reati più gravi in politica, cioè corrompere i parlamentari per rovesciare la maggioranza eletta dai cittadini, diciamo. Ho l'impressione che siamo arrivati al dunque, siamo a un redderazione, c'è poco da fare, diciamo. Lui potrà resistere un mese, potrà resistere, non lo so. Le previsioni di D'Alema sul futuro di Berlusconi, è giusto dare il diritto di difesa a Berlusconi al Senato, ma siamo a redderazione, siamo al dunque, dice D'Alema. Salutiamo l'onorevole Beppe Fioroni intanto, buonasera. Buonasera a voi. Allora, a proposito del futuro imminente e della sorte di Berlusconi, cominciamo da qua, perché lei è uno dei pochi per ora nel PD ad avere aperto a quello che ha detto Violante, il cosiddetto lodo Violante, che piace al PDL, però per ora il segretario Epifani dice non ha dato una vera apertura su questo, cioè ammettere la possibilità di un ricorso alla Corte Costituzionale per valutare l'applicazione della legge Severino, che dovrebbe invece escludere Berlusconi dal Senato. È così che la pensa lei? Beh, diciamo che io ho detto una cosa diversa, avendola detta prima di Violante, molto prima, è difficile che poteva riferirmi al lodo Violante. Io ho detto semplicemente che sono personalmente convinto che la legge Severino, per la quale abbiamo anche respinto la pregiudiziale di incostituzionalità in sede parlamentare, che la decadenza di Berlusconi non è né un atto di prevaricazione né un atto di aggressione, ma è la semplice applicazione di una legge in uno stato di diritto dove tutti i cittadini sono uguali come di fronte all'applicazione della sentenza. Ma proprio perché siamo forti di questa nostra convinzione, di questa nostra certezza, non possiamo consentirci il rischio, che spesso ci viene bene, di dare la patente di vittima o di essere sottoposto a un'aggressione dal solito complotto comunista, comunista giudiziario, giudici e comunisti, e quindi, siccome il diritto alla difesa è un diritto sacrosanto, se in sede di giunta verranno sottoposti quesiti o approfondimenti, è giusto in sede di giunta dirimere quei quesiti e quegli approfondimenti, discernendo il tempo che occorre per dare risposte a quei chiarimenti da quel tempo che non è concedibile se diventa strumentalizzazione o se diventa rinvio sine die. Per quanto riguarda il ricorso alla consulta, io, siccome non è un conflitto di attribuzioni, ma è superare un caso che è concesso farlo all'organo giudicante, io ho personalmente dubbi che la giunta possa a Corte Costituzionale. Credo che esistano competenze e anche lo strumento delle audizioni per poter chiarire tutti i dubbi che qualcuno in maniera seria presuppone in sede di commissione e quindi procedere alle decisioni della commissione. Anche perché io faccio un ragionamento così sommessamente: se un Parlamento che nel 2012 vota una legge, poi poco meno di un anno dopo, nemmeno un anno dopo, chiede alla Corte Costituzionale di valutare la costituzionalità, beh, è un po' un'ammissione anche di incapacità, e poi anche un cortocircuito. Si dice che decidono sempre tutto i giudici, e invece per una volta, invece di far decidere il Parlamento, si ricorre ai giudici. Però su questo mi sembra che lei, cioè, dare tempo per gli approfondimenti sì, ma il ricorso alla Corte, vediamo di capirci, o votare il 9 settembre o votare il 29 settembre. Che tra l'altro è il giorno del compleanno di Berlusconi, in questo caso. Non, questo non lo sapevo. Questo sarebbe poco carino, forse. No, sto scherzando. Voteremo il 30. Non sì. Mi sembra che faccia una eccessiva differenza. Ecco, però lei diceva, allora, no, che... Scusi, la differenza sì. Evitare di dare l'idea che sia in presenza di un partito democratico che è nei toni arroganti e nei comportamenti pregiudiziale. Siccome noi non siamo né arroganti né pregiudiziali, come sosteniamo che in uno Stato di diritto siamo tutti di fronte alla legge e tutti uguali di fronte alle sentenze, così in uno Stato di diritto siamo tutti uguali nell'avere giustamente il diritto alla difesa. Però lei dice, noi siamo un partito, cioè dobbiamo evitare di dare l'idea che il PD salta addosso a Berlusconi e lo fa diventare nuovamente una vittima. Però c'è anche chi è dell'idea opposta, cioè che invece il PD ha in altre occasioni, altre volte, ha teso una mano a Berlusconi. Ieri sera, per esempio, Cacciari, parlando con noi, ha detto se il PD dà una mano, in questo caso a Berlusconi, a protrarre la sua situazione, il partito è finito. Ieri Emiliano, il sindaco di Bari, su Twitter ha scritto: il PD lavora bene per il PDL e per Berlusconi. Senza di noi gli italiani si sarebbero già liberati di questo impresentabile e incapace. Non c'è anche questo rischio per il PD che se in qualche modo la situazione di Berlusconi si protrae adesso che, come diceva D'Alema, sembra arrivata al capolinea, il vostro nemico politico storico, lo salvate e il PD implode? Guardi, io la dico la verità, questo tema sono sempre stato portato a affrontarlo con quella ordinaria saggezza che sembra oggi una merce rara e con quella sobrietà che si deve quando si affrontano temi che riguardano la libertà di ogni singolo cittadino. D'altronde quelli che più o meno hanno sempre le fregole nel voler attaccare Berlusconi, io Berlusconi lo voglio decada perché è il rispetto della legge, perché si dia seguito a una sentenza passata in giudicato che va rispettata da tutti, perché sostengo a pieno titolo la libertà e la democrazia di un grande paese che si fonda su uno Stato di diritto come è l'Italia. Ma detto questo, io Berlusconi, tutti questi che hanno sostenuto sempre questi atteggiamenti così guerrafondai, sono quelli che hanno dato una musata nel 94 con la gioiosa macchina da guerra, che si pensava che avessero già vinto, è arrivato qualcuno si è portato via l'Italia con una bandierina. Hanno replicato l'ultima volta 3 mesi fa, quando pensavamo di aver vinto tutti le elezioni, e ci siamo accorti che così non è. Allora credo che noi dobbiamo applicare le leggi, far decadere Berlusconi e incominciare a pensare che per vincere le elezioni, siccome Berlusconi non c'è più, su questa ragione D'Alema, è un re d'azione, sì, i suoi comportamenti rispetto allo Stato e rispetto alla legge, il Partito Democratico, quelli hanno un morto politico in casa. Noi non dovremmo dare la sensazione di essere nell'angoscia di avere uno zio politico morto in casa, perché che cosa succede il giorno prossimo, tra un mese, quando Berlusconi non sarà più nell'agone politico, che il Partito Democratico la propria azione politica come la dispiega? D'altronde da soli abbiamo visto che l'anti-berlusconismo non basta, occorre oggi che non c'è più Berlusconi, che è stato lo spartiacque del bene e del male in questa seconda Repubblica, sì, ci sia un Partito Democratico che ha un proprio progetto, delle proprie idee, dei propri valori, che poi sceglie chi lo rappresenta, ma che vince perché dà sicurezza agli italiani. Senta, perché stavolta non c'è chiaro. Nessuno che ci fa vincere, perché pigliamo un premio di maggioranza e poi siamo minoranza nel paese, perché un governo senza essere maggioranza nel paese non è né autorevole né credibile. Vabbè, poi ci vuole soprattutto la maggioranza in Parlamento, e questa, con questa legge elettorale, è difficile averla. Senta, invece, a proposito di idee per il futuro e per il paese, non basta la maggioranza in Parlamento. Però è una precondizione, sì, se no non si governa. Questa, sì, ma non era questa la domanda che le volevo fare. Con solo questa legge, sì, la maggioranza in Parlamento, l'ha dimostrato tutti quelli che prendono la maggioranza, sì, prendendo meno del 30% o prendendo il 32 o il 33%, non sono maggioranza nel paese, governano sempre male. Ma non, quindi, si governa male, mi scusi, a me mi sembra che si governi male per la ragione opposta, non per quello che dice lei, perché non c'è la maggioranza al Senato, non perché c'è troppa alla Camera. Mi sembra che questo che ha frenato, per esempio, il vostro governo all'inizio della legislatura, o mi sbaglio? Si governi male anche col 50% degli italiani che non vota e si stanno avvicinando ad essere il 60%. E quindi? Ti dicono politica, non grazie. E quindi c'è una scommessa su come rifondare il rapporto tra cittadino ed elettore, c'è un bisogno della legge elettorale dove gli elettori scelgono il nome e cognome del deputato e del senatore che deve essere eletto, e un premio di maggioranza che scatta almeno dopo che la coalizione ha preso il 40% del consenso degli italiani. Sì, ma se la coalizione non arriva al 40%, come non è successo in questa occasione, siamo punto e da capo. Ma se la coalizione non arriva al 40%, bisogna prendere atto che se gli italiani non vogliono essere bipolari, sì, ma hanno deciso di essere tripolari o quadripolari, bisogna rispettare la quindi, volontà. Però in questa condizione, cioè lei auspica quindi le larghe intese anche per il futuro, perché adesso con tre partiti, PD, PDL e Grillo, l'unica possibilità è questa per il futuro. Io spero che la prossima volta noi riusciamo a fare la coalizione giusta, perché... ma sono vent'anni che sperate, però per ora... Diciamo che negli ultimi vent'anni noi abbiamo sempre ripetutamente presentato una coalizione con l'assillo dell'Unione a sinistra. Se noi invece riuscissimo a capire che senza Berlusconi ci sono circa 10 milioni di voti che possono essere interessati a un progetto riformista e che tiene conto anche delle ragioni dei moderati, che quindi compete al centro, molto probabilmente anche alle ultime elezioni, se avessimo fatto l'Italia bene con Monti invece che con Vendola, avremmo vinto le elezioni col 40% circa. Beh, non è che Monti abbia preso molto più di Vendola. Comunque, questi poi sono gli auspici politici per il futuro. Io le voglio fare però un'altra domanda. Mi scusi, Fioroni, perché sennò poi il tempo passa e invece abbiamo l'IMU appena tolta. E volevo chiederle se lei è soddisfatto come Alfano, oppure se è un po' preoccupato come Fassina, perché tolta l'IMU c'è la service tax. Cioè, è un po' il gioco delle tre carte, sembra, almeno al cittadino comune. Guarda, io credo che quello che hanno trovato ieri in Consiglio dei Ministri, adesso dovremo leggere il provvedimento nel dettaglio, ma è un provvedimento che di fatto riesce a dare una risposta alla riduzione dell'incidenza della tassa sugli immobili, tenendo presente che quelli che se lo possono permettere continueranno a dare una quota allo Stato o agli enti locali all'interno di una nuova tassa che si chiamerà service tax, che mette insieme quella che era la vecchia IMU e quella che è l'attuale TARES. Mi sembra un processo di trasformazione insieme a una grande battaglia ideologica, perché tutto sommato se al cittadino che non può gli togliamo di pagare l'IMU e non gliela facciamo pagare neanche per il futuro, io questo sono convinto che non è una cosa di cui deve essere contento Alfano, ma una cosa di cui deve essere contento anche il PD, dove abbiamo scritto nei nostri programmi da quando la tassa è stata messa. Senta, me lo chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, chissà quante volte gliel'avranno chiesto. Lei ha votato contro Prodi quando ci fu il famoso voto per il capo dello Stato? No, io ho votato prima Marini e vado ancora cercando i 220 che non hanno votato Marini e che non l'hanno detto da nessuna parte, perché si erano espressi contro meno di 40, e ho votato Prodi perché io di solito sono abituato a rispettare le indicazioni del partito anche quando non sono più o meno d'accordo. Purtroppo noi siamo in un partito dove uno dice ma io ho detto no, poi il partito ha deciso sì e decidiamo tutti a votarlo. Lei ha molta passione giustamente per sapere i 100 di Prodi. No, è che lo chiedono gli ascoltatori al 349-238-6666, poi è un argomento che ritorna, ma insomma lei ha risposto. Grazie mille a Beppe Fioroni. And now the good news. Gratta Gratis è il primo scontrino che premia il consumatore. Sul retro di ogni scontrino fiscale è stampato un gratta e vinci che può nascondere uno sconto o un premio. L'idea viene da due imprenditori monzesi, convinti che l'incentivo spingerà i consumatori a chiedere sempre lo scontrino. Più che la lotta, poté la lotteria all'evasione. (800) 24 00 24, cominciamo subito a sentire i vostri interventi, cari ascoltatori, al numero verde. Però c'è una intervista in diretta di Silvio Berlusconi, credo a Studio Aperto, sentiamo un po' cosa sta dicendo. Presidente, oggi c'è già chi dice che l'abolizione totale dell'IMU non consentirà di evitare l'aumento dell'IVA. Resta convinto che questa tassa sui consumi non debba essere aumentata? Sì, guardi, assolutamente, perché Intanto bisogna dire che non c'è una sicurezza attraverso l'aumento di questa tassa di avere veramente un aumento delle entrate dell'erario. E poi dobbiamo tenere presente che l'obiettivo fondamentale per il futuro è quello... Vabbè, Berlusconi a proposito dell'IMU, dell'IVA, perché adesso naturalmente si è aperto un altro dibattito, il fatto che avere speso 4 miliardi di euro, o 3 come dice Saccomanni per il momento, per avere coperto la cancellazione dell'IMU per quest'anno, impedisce, dice il vice ministro dell'economia Fassina, di l'aumento dell'IVA, che era un'altra tassa che incombe sugli italiani. Guarda, su questo Gaspari ha twittato 20 secondi fa. Vedi che tempismo. Esatto, il giornale dice: Alfano no aumento IVA. Fassina risponde: è inevitabile. E Gaspari scrive a Stefano Fassina dicendo: con tutto il Stefano Fassina con tutto il PD ama le tasse, perderà come su IMU. Quindi già, diciamo, perderà come su IMU, come perché era la cosa che dicevi prima non tu. Non ci sarà neanche l'aumento dell'IVA. Esattamente. Questo dice Gaspari. Va bene, e allora... poi perché fa anche una battuta Gaspari che dice: la DN Cronos ha twittato: fisco, abolizione IMU, prima casa premierà di più le famiglie laziali. E quindi Gaspari chiosa questa notizia dicendo: e l'astuto Fassina si starà chiedendo, e i romanisti? Ah, battutone Gaspari. Esatto. Andiamo a Anna che ci chiama da Caserta, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, io dico, la tassa sui servizi... Non basta quello che io pago già trattenuto alla fonte di tassa comunale e di tassa regionale? Non basta. Ancora la tassa sui servizi per aiutare quelli che dovrebbero. Tra l'altro, signora Anna, per coprire l'IMU. Tra l'altro, signora Anna, la cosa incredibile è che questa tassa si chiama la tassa sui servizi indivisibili, che nessuno può immaginare anche solo anche che cosa siano i servizi indivisibili. La tassa che paghiamo al comune, sì, che trattengono alla fonte insieme all'IRPEF, praticamente non è pure quella per i servizi? Perché cos'è? Guardi, quella? Se ci mettiamo a fare l'elenco delle tasse, cioè, sicuramente c'è da rimanerci. È che dovevano trovare male, un nuovo nome, lei dice giustamente, siccome dovevano trovare un nuovo nome, non potevano trovare un nuovo nome che non fosse già compreso in una roba che già paghiamo? C'ha ragione. Oddio, noi l'arte di pigliarci per i fondelli sì, la praticano molto bene, non c'è problema. Va bene. Tra l'altro la chiameranno su un'altra cosa, sui sogni, la Dream Tax. Ci scrive per esempio Luca Tosco Romano su Twitter che hanno tolto una tassa e hanno messo una tax, e in effetti anche questa ci sta. Paolo da Pavia, buonasera. Buonasera a voi e buonasera a tutti. Io volevo dire solamente questo, che mi sembra veramente il gioco delle tre carte. E questo è quello che avete detto tutti. Il gioco delle tre tasse, infatti, dicono tutti. Eh? Il gioco delle tre tasse, dicono molti giornali anche. Sì, ecco. Non ho ancora letto i giornali, comunque mi pare che sia proprio questo. E se posso permettermi una piccola volgarità, magari con Cruciani era possibile, non so con voi, che siete molto più attenti. Mi sembra che noi gli abbiamo dato in mano la vasellina con la sabbia, ecco, poi quello che ne fanno la vasellina con la sabbia è perfetto, direi, la vasellina con la sabbia, non è che c'è bisogno di essere attenti. Dobbiamo fare un commento su vasellino o su sabbia? No, sui nostri politici, che noi abbiamo dato a loro la vasellina con la sabbia e loro la usano. Speriamo, lasciamo stare. E loro diciamo che hanno cambiato il nome da IMU a Service Tax per questo dildo, così per rimanere nella metafora. Sì, esatto. No, è veramente una cosa vergognosa. Anche perché... E cambieranno il nome della sabbia chiamandola vasellina, e questo potrebbe anche succedere. Va bene, grazie Paolo, buona serata. Mirko da Lucca. Sì, buonasera. Prego. Io volevo fare un commento anche un po' sarcastico alla dichiarazione di Alfano, nel senso che secondo me l'unica nota lieta che ci possono fare è che si levino tutti di torno, perché qua continuano a fare cose che sono ben inutili. Io sono un artigiano, a me non cambia granché avere in tasca 300 euro in più, se non ci ridanno lavoro, se non rimuovono gli italiani nella volontà di spendere soldi, qua non si va avanti, inutile che girino intorno all'IMU giusto per... Ma poi non credo che le resteranno questi 300 euro, perché ma diciamo si chiameranno service tax. Ma propaganda elettorale, cioè sono cose che non funzionano, ma devono finire. E funzionare funzionano perché intanto sono lì da 20 anni al Vabbè, governo. Vabbè, quelli tutti che tirano un sospiro di sollievo sono i 6.500 esodati per i quali è stata trovata una soluzione, questi magari beh, sì. Per questi sì, certo. Però... Non, cioè, io è fuffa, è tutta fuffa, cioè non si va avanti se continuano così. Siamo sempre lì che si rigira intorno a cose che non servono a niente. Devono dare un cambio di marcia, oppure l'unica cosa che ci può far piacere è che se ne vadano tutti, perché se ne arriva di nuovi non possono fare i disastri che hanno fatto loro. Quindi vabbè. Elezioni, dice. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie, buona serata. Dove andiamo? Umberto che ci chiama da Pavia, buonasera. Buonasera, senta, io volevo intervenire su Violante e sull'incandibilità di Berlusconi. Sì. Credo che siamo proprio uno Stato, una nazione proprio da ridere. 3 gradi di giudizio, no? E allora intervengono i soloni della giustizia e della Costituzione, bisogna ancora approfondire. All'estero, nei paesi civili, uno non paga una multa, si fa togliere una multa, sparisce dalla circolazione, no? Qui condannato per frode fiscale, bisogna approfondire il tema. E i soloni, grandi saggi della giustizia, dice esaminiamo. Che Violante è un solone? Violante secondo lei è un solone? No, guarda, Violante, io in passato avevo votato anche PDL, avevo votato Forza Italia, avevo votato Lega, poi ultimamente avevo votato anche DS, ma quando sento questa gente, no, questa gente come Violante che deve approfondire la questione, no, su una persona che a un certo punto è stata giudicata colpevole dopo 3 gradi di giudizio, cosa vuole approfondire? Cosa vogliamo approfondire? Guardi, quello che c'è da approfondire è cercare di tenere in piedi il governo. No, no, non solo di tenere in piedi il governo, questo dal punto di vista politico, ma dal punto di vista diciamo giuridico, il fatto se il Parlamento debba automaticamente sentenziare la decadenza di Berlusconi, oppure visto che è previsto dalla Costituzione, articolo 68, eccetera, l'autonomia di decisione e quindi anche di dire un no, per esempio, o, ma cosa che io trovo ridicola, fare un ricorso alla Corte Costituzionale per capire se la legge Severino, fatta un anno fa da questo stesso Parlamento, è o no costituzionale. E now, the good news! Generi alimentari in cambio di rifiuti. Da qualche mese in tutti i comuni delle Alte Madonie in Sicilia sono comparsi gli Ecopunto, le botteghe del baratto, dove è possibile scambiare materiali riciclabili con generi alimentari di prima necessità. È un modo per risparmiare e fare bene all'ambiente. Ricevere un rifiuto da queste parti fa solo piacere. Voglio ripetere quello che ha detto Fioroni qui da noi, perché è interessante. Beppe non tutto, Fioroni tutto, del tutto. PD. No, ci vediamo un quarto d'ora. Perché lui era indicato come uno, l'unico nel Partito Democratico per ora che apertamente avesse appoggiato la mozione Alfano, lodo Alfano, Alfano, buonanotte, Violante, cioè quello del diritto di difesa per Berlusconi e possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale in sede di giunta in Senato. Lui ha detto diritto di difesa sì, ricorso alla Corte non credo. Su questo, però poi ha detto Berlusconi decadrà comunque perché prima o poi arriveremo a un voto, quindi ha confermato la linea di Epifani del PD da questo punto di vista, però le sorprese arrivano dopo, andremo al voto con una legge elettorale che premia le coalizioni che raggiungono almeno il 40%, che oggi nessuno raggiungerebbe visto che ci sono 3 partiti che sono al 25%, PD, PDL e Grillo, e quindi in pratica di nuovo ingovernabilità, di nuovo ingovernabilità oppure larghe intese di nuovo. Oppure dice se ci fossimo alleati con Monti, ha detto detto Fioroni, questa secondo me è una cosa abbastanza sconcertante, avremmo vinto le elezioni anziché allearci con Vendola, ma Monti credo che abbia preso meno Fioroni, di quello che ha preso Vendola, o forse poco di più. Fioroni ricorda che era quello che aveva fatto anche la lettera chiedendo che Vendola non... Sì, ma non è questione di posizione politica, è una questione proprio di numeri, non andavano da nessuna parte, quindi non si capisce qual è il progetto politico di e soprattutto l'altra cosa che ha detto è Berlusconi non c'è più, che mi sembra, voglio dire, dal suo punto di vista ottimistica come visione, nel senso che voglio dire, non potrà magari candidarsi, ma che non ci sia più mi sembra si è allineato alle previsioni di D'Alema. Possiamo anche farle risentire dopo le previsioni di D'Alema su Berlusconi, che sono catastrofiche per il PDL. Le sentiamo dopo le D'Alema. Sentiamo invece Luca dalla provincia di Modena. Buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Prego. Io mi rifacevo infatti a questa, che come avete chiamato voi, il gioco delle tre tasse. Ne avete nominate due, quindi la nuova service tax e la vecchia IMU. Ma ci dimentichiamo... è la vecchia ICI. Ci dimentichiamo la vecchia ICI, infatti, che forse era l'unica con un po' di senso, no? Si pagava direttamente ai comuni e i soldi rimanevano ai comuni, che potevano utilizzarli, asili, scuole. Io le telefono da non proprio da Modena, ma da Mirandola, che l'anno scorso è stata proprio la città più colpita dagli eventi sismici, dal terremoto. Certo. E probabilmente la mancanza di questa tassa, di questa vecchia ICI, si sente molto, perché diciamo che l'idea che si ha in Italia è che fino a che si rimane ai livelli comunali, piccole amministrazioni, ci siano persone molto in gamba e che sanno come gestire e come... E ci sono meno sprechi, diciamo. Meno sprechi. Anche perché sono meno passaggi. Ogni passaggio in Italia, esatto, penso che comporti qualche perdita ingiustificata. Certo, ma la service tax io non lo so se sarà direttamente, si sa già questa cosa, se sarà direttamente da pagare ai comuni o se invece sarà una tassa nazionale che dopo viene ridistribuita ai comuni. Ecco, io oggi ho letto questa cosa, non ho trovato indicazioni, però credo che la tendenza non si inverta, quindi siamo passati da comunale a statale. Ma credo che per il momento hanno trovato il nome service tax, ma che cosa sia non ne ha nessuno la più pallida idea, perché sono già saltati su a dire, ma come, allora questa qui è una tassa che pagheranno solo gli inquilini, quindi tutti i proprietari di case in realtà pagheranno meno tasse, quindi diciamo i più abbienti pagheranno meno tasse. Quindi non si sa ancora niente di questa tassa, in realtà, se sarà comunale, se sarà nazionale. Si sa solo il nome per il momento. Vabbè, non adesso, si chiamerà IMU. Adesso tagliamo la testa al toro e vi raccontiamo una storia, grazie per essere intervenuto, che è abbastanza incredibile. Viene da Monvalle, in provincia di Varese. Abbiamo sentito parlare di IMU pagata dagli anziani che vanno in casa di riposo perché la prima casa diventa seconda casa. La stessa cosa per i disabili, cose forse adesso risolte. C'è anche l'IMU per i detenuti in carcere. Buonasera al sindaco di Monvalle, Franco Oregioni. Buonasera. Oregiani, mi scusi. Oregioni. No, Oregioni. Era giusto come avevano scritto in redazione. Allora, sì. Senta, sindaco, è vero che voi fate pagare l'IMU a un detenuto che è in carcere, quindi la sua prima casa per voi diventa seconda casa, uno che deve stare 9 anni in galera? È un po' curiosa sta cosa qua. Più che curiosa è singolare rispetto all'applicazione della legge. Cioè, non è che noi... all'improvviso col caldo estivo siamo andati via di testa, no, abbiamo ponderato bene, lo dico anche per rispetto a chi ci ascolta, mi spiego? E noi abbiamo approfondito, analizzato per bene il problema, siccome poi il comune è piccolo, conosciamo e conosco personalmente anche la persona direttamente interessata e abbiamo valutato anche i risvolti della questione, non c'è stato nessuna forma né di burocrazia né di accanimento, noi abbiamo comunicato. Sì. Con lettera, non è che siamo usciti con tabelle impositive né tantomeno azioni di rivalsa. Noi abbiamo comunicato con una lettera, proprio una comunicazione scritta, che dalle prime verifiche sul gettito IMU 2012 la situazione di questo cittadino è che secondo l'applicazione della legge sarebbe detenuto a versare la sua quota di possesso sull'abitazione come seconda casa, a nostro modo di vedere, non avendo più lui i requisiti della prima abitazione. Ma è lì che però scatta la cosa, no? Cioè, a vostro modo di vedere, non è che uno può anche non farlo, non richiederlo questo tributo, non fare questa verifica, perché è evidente, lampante, che il caso è incredibile. Ma più che lampante, noi come tutti i comuni d'Italia ci ostiniamo ad applicare la legge. La legge in particolare su questo detto articolo riconosce come casistica di favore, come casistica diciamo agevolata, solo due condizioni precise, che sono gli anziani in casa di riposo e i disabili. E poi ovvio che le casistiche possono essere ampliate, ci possono essere, giustamente adesso è emersa la condizione di un detenuto, e le casistiche possono essere tantissime, però la legge non le copre. Da un lato è un bene che sia emerso per causa del comune di Monvalle questo problema, io lo considero un fatto positivo, però se questo vizio di legge non lo può, come dire, illuminare né risolvere il comune nei propri uffici, né tantomeno il sindaco. Ma non si può in qualche caso, sindaco, in qualche caso non richiedere un tributo? Cioè il comune non può mai fare marcia indietro su una tassa, su una cosa che deve chiedere a qualcuno, se si rende conto per qualche motivo che questa cosa qua non ha senso, non va fatta. Il problema è che dopo l'incombenza potrebbe essere quella di un danno patrimoniale, se chi paga le tasse potrebbe dire ma come? Ma chi vi denuncierebbe in questo caso qua? Per un IMU? Chi vi potrebbe denunciare in questo caso per un IMU non pagata di uno che è in carcere? Qualunque cittadino, se fosse a conoscenza di questo, visto poi i percorsi di trasparenza, di assoluta trasparenza dell'azione dell'amministrazione pubblica. Ma del resto, giustamente, il contribuente, in questo caso il cittadino che sta in carcere, si è rivolto al garante, e il garante, pur facendo intravedere delle sue letture, come dire, applicative, però alla fine la conclusione del garante dei detenuti, il difensore regionale, dice investiremo del quesito il Ministero delle Finanze. Ecco, è interessante a questo punto, scusi, visto che l'IMU non c'è più adesso ufficialmente, a questo punto che arriva la service tax, vediamo di non ricreare tutte quelle situazioni Ma noi non per niente, dopo la comunicazione, la semplice lettera, ci siamo fermati, per noi la questione è in sospeso, vi spiego, non siamo usciti con la cartella esattoriale, vi spiego? Mandate una lettera a Letta e Alfano, così che sono al corrente di questa cosa e magari modificano, già che devono scriverla questa futuro, service tax, visto che va ancora fatta. Da sindaco, in 30 secondi poi dobbiamo chiudere, come giudica l'abolizione dell'IMU e l'arrivo della service tax? I contenuti non li sa nessuno, per cui per poter dare una valutazione anche, come dire, veloce e frettolosa, è difficile sapere i contenuti di questa nuova imposta o tassa di servizio. Non conoscendoli mi è difficile. Va bene, va bene. La preoccupazione è che manchino risorse ai comuni, che vuol dire manchino la possibilità di garantire servizi ai cittadini. Però su questo c'erano state rassicurazioni e infatti le coperture dovrebbero servire proprio a questo. Grazie, buona serata al sindaco di Monvalle. And now, the good news! I mini market del riuso sono una catena di negozi in cui gli abiti vecchi riprendono vita. Rattoppati, tagliuzzati, personalizzati con disegni o borchie, i vestiti fuori moda diventano irriconoscibili. L'idea è venuta a due ragazzi di Rimini che oggi sono titolari di più di 10 negozi in Italia. In tempo di crisi non si butta via niente. Eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24. Tra poco avremo l'intervista all'onorevole Renato Brunetta, capogruppo del PDL alla Camera. Se avete delle domande per lui potete mandarcele anche su Twitter, chiocciola si può fare 24. Così ci portiamo avanti. Se avete ti leggo un idea, tweet subito che di Andrea Franchini, che dice: ma esiste davvero qualche idiota che crede che il minor gettito dell'IMU non venga compensato da altre tasse? Brunetta e Santanchè esclusi? Tanti punti interrogativi. Te lo leggo, domanda appunto, retorica. Perché hai annunciato, diciamo, l'intervista. Allora, cominciamo con i titoli del TG3 intanto. Titoli. Cassazione, le motivazioni della sentenza Mediaset. Fu Berlusconi l'ideatore del sistema di illeciti. Il Cavaliere, sentenza allucinante, non mi elimineranno. Letta, dopo il via libera alla riforma dell'IMU, il governo non ha una scadenza, non temo conseguenze dalle vicende giudiziarie di Berlusconi. Ora però l'esecutivo deve trovare i soldi per evitare l'aumento dell'IVA. Fassina purtroppo è irrimediabile, Alfano impedirlo sarà il prossimo obiettivo. Dal nuovo anno arriverà la service tax, gli inquilini, punirà soltanto noi, dubbi dei sindacati, misure insufficienti su esodati e cassa integrazione. e si riapre il confronto sulla decadenza del Cavaliere. Il PDL nessuna fretta o rompiamo, il PD no a rinvii motivati, il segretario Epifani ospite del TG3. Scatta il blitz in Siria, Obama non sarà un altro Iraq, frenano anche Francia, slitta Francia e Gran Bretagna, e tra poco il riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, arrestato l'ex deputato di Forza Italia Matacena, latitante condannato per legami con l'Andrangheta, amante della bella vita, dalle Seychelles fuggiva a Dubai. Passe sui sogni, passe sul gioco, passe sull'acqua, passe sul fuoco, passe sulle case, passe sulle tombe, passe sui falchi e sulle colombe, passe sul gas, passe sul pane, passe su tutto quello che ti rimane, passe sulla benzina. Per noi ha il valore di una missione compiuta. Abbiamo cancellato l'IMU per il 2013 e nel vocabolario del futuro i testi di diritto tributario, ma anche i documenti dei commercialisti e delle famiglie italiane, non troveranno più scritta la parola IMU. La riforma, il superamento, porta oggi alla fine dell'IMU. Dal 1 gennaio 2014 nasce la service tax, che unifica e che tocca la TARES anche, e quindi è un intervento che riguarda i servizi e non per l'appunto il concetto di proprietà dell'abitazione, così come fino adesso era riguardato per l'IMU. Direttore, era un obiettivo importante, atteso da tutti gli italiani, ed era un punto cardine del nostro programma illustrato agli italiani durante la campagna elettorale. E la vera morale in politica è mantenere gli impegni con gli elettori. Io ho ancora nelle orecchie gli attacchi, direi gli sberleffi che dovete subire in campagna elettorale, ed ora è perfino divertente constatare che tutti i nostri critici di allora sono improvvisamente felici perché l'IMU è stata abolita. Io a questi convertiti dell'ultima ora dico siete benvenuti. Agli italiani invece dico abbiate buona memoria e ricordatevi di chi è il merito. Hai sentito Gabardini, le dichiarazioni le ultime di Berlusconi? Ha ragione quando parla dei convertiti dell'IMU, perché l'IMU la voleva abolire lui, non gli altri. E quindi è una vittoria sua questa qua. Cioè, l'ha messa lui, la voleva togliere lui, l'ha tolta non lui. Non importa, la voleva togliere, ha fatto la campagna elettorale su questa, l'ha tolta e l'ha fatta togliere. Infatti i giornali tutti dicono che o è uno spot per Berlusconi o è una vittoria di Berlusconi. Di fatto è una vittoria. È riuscito a dare un nuovo nome, certo, non è male. C'è l'enigma della service tax, c'è il dubbio che questa cosa sia solo di facciata. Sentiamo per esempio Fassina, lo vogliamo sentire? No, chi sentiamo? Ancora Berlusconi, vai. Naturalmente il nostro lavoro non finisce qui, dovremo considerare con molta attenzione e direi con grande vigilanza questa service tax che scatterà nel 2014, e deve essere chiaro che va assolutamente salvaguardata e protetta la prima casa, che per noi è sacra. Passe sui sogni, passe sul gioco, passe sull'acqua, passe sul fuoco. Bisognerebbe evitare veramente la propaganda che ho sentito da... Facciamo vedere se la regia ce l'ha, se la facciamo vedere noi. Abolita l'IMU titola il giornale. È vero, abolita l'IMU. Non dice il giornale che coloro che pagavano l'IMU pagheranno appunto una service tax. Passe sulle volpi. 800 24 00 24, insomma, pagheremo la service tax. Dice. C'è di buono che Berlusconi è tornato a parlare comunque. Perché di buono? Sentivi la mancanza? Ma è un po' sì, è un sacco comunque che non parlava. È vero che non interveniva. Vabbè, forse sentire. In via voce era un po' di tempo. È vero. Vabbè, comunque poi ci sono gli inquilini, i sindacati degli inquilini che protestano, perché di questa service tax si sa che la pagheranno anche gli inquilini e non solo i proprietari. Quindi, insomma, c'è di che discutere. Noi cerchiamo di tirarvi su il morale con il punto di vista strambo di questa sera, che ha a che fare con la felicità. Ritroviamo il professor Enrico Cheli. Buonasera. Buonasera a voi. psicologo, psicoterapeuta, lavora all'Università di Siena. L'altra volta ci aveva cominciato a ingolosire con gli esercizi per essere felici a prescindere, ma c'è stata anche un po' di reazione, professore, perché lei, qualcuno ha pensato che lei fosse un po' un santone, chissà cosa ci vuole mettere in testa questo professor Kelly, che tra l'altro lei è presidente della fondazione Oliversity. Che cos'è? Spieghiamolo, perché così togliamo il dubbio a qualcuno che lei non sia un santone che fa la macumba. Allora, la Fondazione Oliversity è un acronimo, vuol dire Holistic University, quindi è una fondazione scientifica, una fondazione che si occupa di ricerca scientifica con approccio olistico, ovvero sia mette insieme punti di vista disciplinari diversi, quindi psicologia, sociologia, ma anche medicina, filosofia, cioè un approccio a 360 gradi. Cioè, tutte cose che si studiano all'università, insomma non c'è niente di misterioso. Torniamo però a noi e a qualche altro esercizio per essere felici a prescindere, perché lei, c'è un libro, c'è un metodo, ci sono dei corsi che lei fa, degli studi, proprio per cercare di arrivare a questo, essere felici a prescindere da cause oggettive, cioè vinco il totocalcio, sono felice. Lei dice no, bisogna lavorare, si può lavorare ed è dimostrato che ci si può arrivare. Come? Esatto, allora intanto sulle cause oggettive, su quello che ci accade all'esterno, diciamo, non abbiamo un grande controllo, però abbiamo un grande controllo su quello che accade dentro di noi, cioè che interpretazione diamo ai fatti esterni. Questo è un punto importantissimo, l'avevano già riconosciuto i filosofi stoici 2000 anni fa, è il punto cardine delle psicologie e delle psicoterapie cognitivo-comportamentali, quindi stiamo parlando di cose assolutamente scientifiche che ci dicono che lo stesso fatto accaduto a due persone diverse che ne danno un'interpretazione diversa produce effetti diversi. Uno adesso magari... potrei fare subito una battuta sull'abolizione dell'IMU. Esatto. Alfano era tutto contento e Fassina meno, era un po' triste. Sì, beh, questo diciamo qui si entra in un altro campo più politico. Preferirei, sì. Però il fatto era lo stesso. Però il concetto è giusto. Cioè... Beh, ma anche quando fischiano un rigore, diciamo, di solito c'è chi è contento e chi non è contento, giusto? Questo però. Anche tra chi non è contento, sì? Anche fra quelli della squadra che subisce il rigore, ci possono essere atteggiamenti diversi. Ci possono essere persone che lo prendono in modo disperato e assolutamente pessimistico e persone che invece lo prendono in modo meno pessimistico e magari più possibilista o addirittura in modo più ottimistico. C'è un processo. Quelli pagati dagli avversari, direi. Non solo, quelli che vogliono essere un po' meno infelici. Ecco, non me lo tirare giù il professore, no, lui c'è che tirarsi su e tu ci tiri giù. Prego, professore. Sì, già subire un rigore è una cosa spiacevole, ma se ci carichiamo sopra anche delle convinzioni pessimistiche diventa ancora più spiacevole. Quindi questo è uno dei punti che la psicologia, in particolare anche la psicologia positiva, ha messo a fuoco. Cioè, sì. Quindi lei ci invita a guardare le cose in un certo modo, in modo più ottimistico per noi, più positivo tutto sommato per noi, meno doloroso. Ma ci io voglio sentire, però, esatto, un esercizio, ne voglio farlo. Perché l'altra volta l'esercizio era piaciuto, quello di ascoltarsi le gambe, salire, eccetera. Ce n'ha un altro? Sì, proprio sulle credenze. Allora, sì. Intanto... è un esercizio da fare su uno degli ambiti che per il radioascoltatore sono un po' critici, per qualcuno è il lavoro, per qualcun altro è il denaro, per qualcuno le relazioni sentimentali. Cominciare a scrivere su un foglio tre o quattro convinzioni che abbiamo, per esempio sul lavoro, non so, il lavoro è difficile da trovare, oppure il lavoro è fatica e sacrificio, oppure il lavoro invece è realizzazione, gioia, è soddisfazione. Ognuno mette le sue credenze, sì. Dopodiché si pone poi alcune domande su queste credenze. Prima vanno scritte, ovviamente, no? E poi dopo che le ha scritte, la prima domanda è: questa convinzione che io ho sul lavoro oppure sulla coppia si basa sulla realtà? Sono sicuro di questo? Poi, questa credenza protegge la mia vita e il mio benessere oppure mi fa stare peggio? Perché, sì. Per esempio, una credenza come trovare il lavoro è impossibile, è una credenza che automaticamente mi taglia fuori, quindi se io sono un disoccupato e sono convinto di questo, assolutamente non lo troverò, perché c'è un fenomeno psicologico che si chiama profezia che si autoavvera. Quindi se io sono convinto che è impossibile trovare lavoro, sicuramente non lo troverò. Cioè se io mi sento uno sfigato, vado in giro e gli altri mi vedono come uno sfigato. Esattamente, esattamente. Creo intorno a me le condizioni per cui poi quello che io credo si avvera. Quindi bisogna stare molto attenti, ci sono persone che per esempio sono convinte, dice, ma è meglio pensare il peggio, così se poi mi va bene. E invece no, se si pensa il peggio, sì, purtroppo il peggio accade. Quindi bisogna stare molto attenti. Cioè, quindi partire dalle nostre credenze messe nero su bianco, e poi però farsi delle domande per capire se queste credenze ci aiutano, esatto, o invece ci limitano. Il problema è che se uno è pessimista rischia di confermarle invece ogni volta. Invece c'è un sistema, appunto, per non confermarle. Come si fa a sbloccarla questa situazione? Ha ragione Gabardini, perché se io sono istintivamente pessimista continuerò a pensarla in quel modo lì. Allora, intanto, per esempio, supponiamo che io ho scritto la mia credenza e ho individuato che questa credenza è impossibile trovare lavoro, mi limita e mi fa star male. No, ma addolciamo però la credenza, perché è troppo forte. Trovare lavoro è impossibile, è falsa, nel senso che basta guardarsi intorno, uno che trova lavoro si trova, e quindi è molto difficile, diciamo. Questo è benissimo, anche molto difficile. Allora, va ammorbidita. Quindi io cercherò di trovare una credenza più realistica, non dico utopistica o ottimistica, dico un po' più realistica. Quindi trovare lavoro in questo momento è difficile, ma si può fare. Ecco, perfetto, così cita anche il titolo della nostra trasmissione, perfetto. Ecco, sì. Dobbiamo dare una chiusura però a tutto questo, professore, perché purtroppo il tempo è passato, ci abbiamo la borsa tra poco. Per chi vuole continuare a seguire queste cose qua, per esempio con il professor Kelly, possiamo risentirci, perché si può fare, andrà avanti nel weekend, la mattina, il sabato, la domenica, e quindi un po' di queste cose le porteremo. Ci farà compagnia ancora, sì. Certo, poi ci sono i libri, come lei diceva. Insomma, citiamo il libro, vai, così facciamo anche il momento spot. Guardi, ne cito due, perché non voglio citare solo i miei libri. Quindi, anzi, per primo cito un libro di Christian Boiron che si chiama Siamo tutti fatti per essere felici, e dove poi ci sono molti esercizi. E poi un mio libro che si chiama Relazioni in armonia, perché questo è un libro, è un argomento che potrei trattare nella prossima volta. Va bene, va bene. L'abbiamo detto, le perfetto. Sono importantissime per la felicità. Grazie mille, professor Kelly, buona serata. And now the good news. A Modena nasce Portobello, il supermercato sociale dove i disoccupati trovano generi di prima necessità gratis in cambio di qualche ora di volontariato nel supermercato stesso. Solidarietà e dignità qui vanno di pari passo, il passo del baratto. Andiamo con gli ascoltatori. Domenico dalla provincia di Bari, buonasera. Buonasera dottor Maurizi. Innanzitutto complimenti per la sua meravigliosa e impeccabile conduzione della trasmissione. Senta, grazie, io voglio intervenire, desidero intervenire sull'IMU e sul decreto Severino. Prima mi consenta però di una precisazione che è importantissima. Il PD e il PDL hanno sempre convissuto nello stesso letto, come due maiali, hanno fatto e fanno i porci comodi. Molto importante questo. E lei, quindi, è partito così, leggero, diciamo. Sì, sì, no, ma è una cosa, per le persone che non hanno perso la dignità, sì, possono parlare in questo modo, che è una cosa, chi la svente non la può più recuperare. E allora, incominciamo dal decreto Severino. Ho sentito che senatore Berlusconi ha fatto presentare alla Giunta una memoria difensiva da 8 giuristi. Non entro nel merito sul giudizio di queste persone, perché altrimenti dico solo che è compassionevole che 8 persone, voglio dire, con la loro cultura si prestano al gioco del più grande mentitore della storia esistente in tutti i tempi sul globo terracqueo. Sì, ma lei è partito veramente così. È un monologo bellissimo. Cioè, ecco, va avanti molto, Domenico? Ecco, no, finito. Dunque, se avessero letto costoro e gli altri, specialmente i signori dei DS, va bene, la relazione illustrativa al decreto Severino, comprende 36 pagine, avrebbero fugato qualsiasi dubbio, perché in quella relazione, in modo solare, in modo palmare, senza ombra di perpole, va bene? Okay. Cosa c'è scritto in quella relazione? Perché fa riferimento a tutto ciò che la consulta ha detto, quindi la Giunta dovrebbe solo leggere in giunta la relazione allegata al decreto Severino, va bene, prendere atto, perché deve solo prendere atto, passarlo in Senato e deliberare. Non è, ma in parole un po' più semplici, no, vabbè, in parole più semplici, lui non è capace, Domenico, in parole, lui è capace così, con questo modo retorico. È bello, va bene, però, sulla legge Severino ha detto in 30 secondi anche sul Limo. No, no, anche sul Limo, così sì, facciamo sì, anche questo argomento. Sì, sì, sul Limo. Sul Limo sì, ci sono tanti acronimi che vanno in modo che la gente non debba capire nulla. Mm. Limo, nella penultima consultazione politica, Berlusconi il giorno prima disse che avrebbe volato l'ICI. Aboli l'ICI, però cosa succede? Che ha fregato tutti gli italiani, anche coloro che non avevano le case, perché i comuni, non avendo i soldi, va bene, applicarono l'addizionale comunale IRPEF e pagarono anche le persone che non avevano case. Vabbè, quindi, Domenico, il metodo Domenico non lo possiamo seguire, perché lei ci mette troppo a dire le cose. Grazie, buona serata. Anche perché abbiamo l'onorevole Renato Brunetta, buonasera. Buonasera a voi. Capogruppo del PDL alla Camera. Partiamo proprio da qui, da Limo, Brunetta, perché è un punto importante, no? È stato sottolineato da tutti. Però sbaglia il cittadino che di fronte al fatto che viene cancellata Limo, ma che viene introdotta la service tax, ha la sensazione che ci sia un po' una partita di giro? Ma intanto il cittadino deve sapere, se è ben informato, e questo è anche compito vostro, che nel 2013 si risparmieranno 4,8 miliardi di euro di IMU e terreni agricoli. Tutti e 4,8? Perché Saccomanni... 4,8 sì, miliardi di euro. 2,4 con il decreto che è stato approvato ieri, sì, e altri 2,4 miliardi che saranno coperti il 15 di ottobre. Questo è l'impegno del governo e non ho alcun dubbio che questo sarà. Certo. Quindi 4,8 miliardi di euro in meno nel 2013. È il più grande taglio fiscale degli ultimi 20 anni. Questo il cittadino, spero informato da voi, deve sapere, e naturalmente con tutti i controlli, con tutte le verifiche del caso. Per a regime, dal 2014 in poi, sì, ci sarà sempre questo taglio di 4,8 miliardi sulla prima casa e i terreni agricoli, però tutto il resto del sistema IMU, che come ben sappiamo non è solo prima casa e terreni agricoli, ma riguarda le seconde case, i capannoni, e riguarda ben altro. In più, tutto il resto del sistema della tassazione degli immobili, che dà un gettito complessivo di 44 miliardi, sarà riformato. E caposaldo della riforma sarà la service tax, che sarà definita nella sua articolazione quali quantitativa all'interno della legge di stabilità. Quindi inutile fare illazioni, temere, per carità, il cittadino italiano deve sempre temere dalla cattiva burocrazia, però inutile fare troppe illazioni. Ma l'ha detto, sì, non so se sono illazioni, però, Brunetta, perché l'ha detto anche, come si chiama, Fassina, il vice ministro, ha detto sì, non cantiamo vittoria solo per avere abolito l'IMU, perché poi dovremmo occuparci di cos'è, infatti, questa service tax. Mi faccia sorridere, Fassina è un rosicone che, avendo visto... lui non la voleva abolire l'IMU, questo è vero. Avendo sì, visto un risultato positivo, si inventa, come dire, lucciole per lanterne, vede lucciole per lanterne. A Fassina dico, leggiti le dichiarazioni del tuo presidente, non di Brunetta, per carità, sì, che non conta nulla, ma del presidente Letta, sia in conferenza stampa che anche quelle recenti, e forse sarebbe bene che ci ripensasse. Perché cosa ha detto Letta? Al suo ruolo, mi scusi, sì, Fassina è un viceministro. Non può un viceministro fare dichiarazioni contro il presidente del Consiglio, ecco, questo è il punto. Ma qual è la dichiarazione di Letta che smentisce Fassina? Lo dovrebbe vedere lei. Letta, sia in conferenza stampa, ha spiegato sì, che un paio d'ore fa al TG5 Letta ha fatto delle dichiarazioni che vi invito ad analizzare con grande attenzione. Guardate Fassina, ma guardate... Ma non ce le può riassumere le dichiarazioni di Letta? Sì. Che conta? Perché devo fare il suo lavoro, mi scusi, sa. No, vabbè, ma queste dichiarazioni... vengo pagato anche col suo stipendio. No, ma che c'entra? Letta ha spiegato sì, che l'IMU non ci sarà più, che ci sarà la service tax e che sulle famiglie la nuova tassa peserà di meno della vecchia IMU. Complessivamente di meno. Con sì. questa, complessivamente, quindi che non ci sarà alcuna partita di giro, che non rientrerà dalla finestra quello che è uscito dalla porta. Senta, sì. se lo vada, mi scusi, se lo vada a vedere. Adesso poi ci andiamo a vederlo. Adesso in tempo reale non ce la faccio. Però. Mi scusi, sì? Sia una bella informazione ai suoi ascoltatori che meritano un'informazione completa sì. e non solo il Fassina pensiero. No, no, ma infatti, vedi, stiamo intervistando Brunetta, che certo non è il Fassina pensiero. Invece le preoccupazioni degli inquilini, ci sono i sindacati degli inquilini preoccupati perché dicono, alla fine... i non proprietari di casa rischiano di pagare di più rispetto a prima. Assolutamente no, l'ha smentito anche questo. Vede che lei non ha fatto bene il suo lavoro. Non ho studiato anche questo nelle ultime due. No, non ha studiato. Sì. No, non c'entra. No, ho guardato quello che ha scritto il Sole 24 Ore. Sì. Non ha guardato no. Letta. Ma io preferisco Brunetta. Letta, io preferisco Brunetta a Letta, vede? Vabbè. Si vada a rivedere Letta, per favore, e Letta spiega che gli inquilini non pagheranno di più. Il principio sarà un principio nuovo, e cioè che i servizi dati a chi abita gli immobili, che siano essi proprietari, che siano essi inquilini, sono servizi che andranno pagati. Mi sembra ovvio. E sarà così, la service tax è questo. Naturalmente, sempre dice Letta, si discuterà con i sindacati degli inquilini, con i sindacati dei proprietari, con gli enti locali, in maniera da costruire una riforma della tassazione degli immobili che sia equa e sostenibile. Senta, questo accordo sull'IMU, scrivono i giornali oggi, e anche Letta, questo sì, ieri sera ha detto non mi chiedete più la scadenza del governo, adesso andiamo avanti. Sono passati tutti i venti di guerra che c'erano. La Santanchè qualche giorno fa aveva detto il governo Letta accadrà. Mi scusi, lei sta intervistando il professor Brunetta. Sì. E quindi? Veda come la pensa il professor Brunetta. Quindi lo chiedo a lei. Forse sarebbe... Che è però il capogruppo del PDL. Ma prima mi cita tale Fassina. Le cito Letta perché lei citava Letta, lo cito anch'io. Ma ha citato Letta, chiedo il mio pensiero magari. No. Il suo pensiero su questo qual è, onorevole Brunetta? Il governo andrà avanti. I governi durano un'intera legislatura, finché governano. Quando non governano più, cadono. Vabbè, questo, non ci sono governi a termine. Sì. La nostra Costituzione non prevede governi a termine. Ecco, ma fra qualche giorno andremo in Senato a un voto importante o comunque a una discussione importante per quanto riguarda la decadenza di Berlusconi. Adesso sembra che ce lo siamo dimenticato. È per questo che le citavo la dichiarazione della Santanchè sul fatto che il governo Letta cadrà. Adesso i giornali scrivono è più difficile per chi ha a cuore l'agibilità di Berlusconi mettere questo tema come prioritario rispetto a quello del governo che ha raggiunto questo importante obiettivo. Lei che ne pensa? Le spiego tutto bene, tranquillamente. Attualmente questo governo è retto da una coalizione. Se il Partito Democratico il giorno 9 assumerà una posizione pregiudiziale politica nei confronti della decadenza di un membro autorevole della coalizione, il leader della coalizione del maggior partito che attualmente forma la coalizione secondo gli ultimi sondaggi, sì. Bene, il Partito Democratico romperà la coalizione e deciderà delle dimissioni del Presidente Letta. Mi sembra ovvio, quando in una coalizione un partito della coalizione in maniera pregiudiziale con una decisione politica dichiara di voler far decadere dal Parlamento il leader del partito con cui è partner nella coalizione, mi pare che non saranno loro a dichiarare la fine del governo. Nessuno si dimetterà da parte del PD, voteranno contro Berlusconi, però non daranno le dimissioni. Quello saranno i ministri del PDL a dare le dimissioni. Ma vede, quando si è in una coalizione, se si rompe la coalizione non serve neanche le dimissioni dell'uno o dell'altro, si rompe la coalizione ed è finita la coalizione. Io non credo che succederà questo, assolutamente no. Perché pensa questo? Beh, perché ho visto molte riflessioni attente e responsabili da parte di esponenti autorevoli del Partito Democratico, Violante per esempio, sì. E penso che Violante non abbia parlato a titolo personale. Però dicono di sì per il momento. Epifani continua a dire che quella è un'opinione personale, quella di Violante. E anche Violante stesso ha detto. Può darsi che sia il gioco delle parti, un po' di amore. Dicono che Violante parli, tra l'altro ispirato da molto in alto. Dal Colle direttamente? Boh, non lo so, ma da molto in alto. Mm. E quindi la sua previsione è alla fine che... perché Violante che cosa ha detto? Ha detto, ha concesso, e su questo nel PD credo che sono tutti a parole favorevoli, il tempo per esercitare la diritta, il diritto di difesa di Berlusconi. Però ha anche parlato di ricorso alla Corte Costituzionale. Ci mancherebbe altro che non ci fosse neanche il tempo per esercitare... Beh, il PD potrebbe anche votare subito e chiedere di votare subito, questa potrebbe essere la loro posizione. Però adesso hanno detto così. Sarebbe un partito un po' anomalo, un partito che non... concede neanche il diritto di difesa. Vabbè, è una posizione politica, poi alla fine quella appunto, ognuno si assumerà la responsabilità. Sarebbe un pregiudizio politico e con chi fa pregiudizi politici lei dove vuole andare. Mm. Senta, oggi ci sono state tra l'altro le motivazioni della Cassazione sulla sentenza Mediaset. Lei ha avuto modo di vederle, cosa ne pensa? Guardi, ho vigilato perché fosse scritto bene il decreto sull'IMU. E non ho avuto tempo per leggere, poi non essendo un giurista, adesso pare che in Italia siano tutti giuristi, non mi applico a cose di cui sono giusto, poco giusto. Senta, però una domanda invece da parlamentare gliela voglio fare, questa. Io ho detto che fare un ricorso alla Corte Costituzionale, un Parlamento che un anno fa ha votato una legge e meno di un anno dopo chiede l'intervento della Corte Costituzionale su questa stessa legge, non è un cortocircuito? Cioè, poi si dice per esempio che intervengono sempre i giudici, i magistrati, in Italia il Parlamento non è autonomo. Questa volta che il Parlamento invece nella sua autonomia, il Senato, può decidere sulla legge Severino e sulla decadenza di Berlusconi, perché questo ricorso alla Corte Costituzionale? I Parlamenti, si diceva nell'Ottocento, possono far tutto tranne che tramutare l'uomo in donna, adesso possono anche far questo. Sinceramente non ho capito. Tutto. I parlamenti possono fare tutto. Quindi compreso il ricorso alla Corte Costituzionale, perché questo è ovvio, ma le chiedo una sua opinione, non è un cortocircuito? Me l'ha detto 4 volte. Rappresentano anche lei i parlamenti, vede? Rappresentano anche lei. Vabbè, non risponde, Brunetta su questo non vuole rispondere. Vabbè, è legittimo. No, sto rispondendo, se un Parlamento nella sua maggioranza cambia opinione, chi può far cambiare opinione a un Parlamento se non i parlamentari? Quindi ha risposto di no, perché è il Parlamento che può modificare la legge Severino, è questo che la gente si aspetta dai parlamentari. No, forse glielo spiego. Ecco, sì, non me la spieghi. È la giunta per le elezioni che può ricorrere alla Corte Costituzionale, ma l'Aula, con un conflitto di attribuzione. Questo è il punto nodale e questo lo può fare. Anche se un anno fa quello stesso Parlamento aveva votato a grande maggioranza il decreto legislativo, la delega e poi il decreto legislativo, il parere sul decreto legislativo Severino. Per esempio il Parlamento potrebbe fare un'altra cosa, siccome la cosiddetta legge Severino è in realtà una legge delega che ha dato origine dei decreti legislativi, siccome la delega è ancora aperta fino a novembre, il governo potrebbe tranquillamente con un decreto legislativo modificare il decreto legislativo precedente, cioè la legge Severino, e il Parlamento sarebbe chiamato solo a dare un parere obbligatorio ma non vincolante. C'è anche questa possibilità. Questa secondo me, almeno se la mia opinione conta, visto che prima era una mia opinione quella sul ricorso alla Corte Costituzionale, che ripeto è un cortocircuito del Parlamento, questa invece è un'ipotesi ragionevole per il Parlamento perché rientra nelle sue competenze. Ma non è un cortocircuito, mi dispiace contraddirla, non è un cortocircuito. Però non è mai stato fatto, evidentemente perché ci sarà quando un motivo. C'è un conflitto tra organi, perché no, anche a distanza di un anno. Evidentemente, le faccio un altro esempio, se qualche giurista eccepisse, per esempio, che il decreto legislativo avesse ecceduto la delega, nonostante avesse ricevuto un parere favorevole, il Parlamento potrebbe cambiarlo, perché no? Quante volte è successo tutto questo? Ripeto, la legge Severino parte da una delega, spiego non a lei che è competente ma agli ascoltatori che possono non avere questa esperienza parlamentare. Una delega dà dei principi e poi delega il governo a emanare dei decreti legislativi di applicazione di quella delega. Il Parlamento è solo chiamato a dare un parere obbligatorio ma non vincolante sui decreti legislativi e il governo ne può fare 1, 2, 3, 5, 25 finché la delega è aperta, cioè ha validità. La delega è aperta fino a novembre, quindi il governo, che magari si accorgesse che alcuni dei suoi decreti legislativi non funzionano bene o sono contraddittori, eccetera, eccetera, potrebbe correggerli con un altro decreto legislativo, di potestà del governo, controllato dal Parlamento. Senta, le voglio fare anche un'altra domanda, un tema importante per il futuro, quello sui rifiuti. Siccome lei abita sull'Ardeatina, è entrato in contatto col comitato di protesta per la discarica, perché il Comune, la Regione, credo la Provincia, il Ministero dell'Ambiente... I comitati ce ne sono più di uno. Sì, no, vabbè, adesso riferisco... La stavo correggendo. Sì. In zona Ardeatina ci sono più comitati... contro la discarica ed è bene che sia così perché c'è piena libertà ovviamente di organizzarsi. Insomma, lei ha manifestato pubblicamente la sua contrarietà e fra l'altro questo dei rifiuti è un tema fondamentale, poi ci dicono che parliamo sempre solo di Berlusconi, invece parliamo di questo. Perché voi protestate? Cioè, lei avrebbe protestato anche se non abitasse lì? Questa domanda è difficile rispondere. Assolutamente, si vede. Io sto seguendo le normative del ministro Clini. Il ministro Clini del passato governo, un ministro tecnico, un direttore di dipartimento del Ministero dell'Ambiente che è tornato a fare il direttore di dipartimento del Ministero dell'Ambiente, durante i suoi 12 mesi di governo aveva emanato una serie di provvedimenti che avrebbero consentito di chiudere la discarica di Malagrotta, discarica Monster a Roma, senza dover aprire altre discariche che, come lei ben sa, ormai sono vietate dall'Unione Europea, come con la raccolta differenziata, con la collocazione dei rifiuti in altri siti fuori dalla regione, con l'ottimizzazione delle discariche già esistenti e con soprattutto le nuove tecnologie. È un piano ambizioso però, perché siamo al 25%. Lascia finire, per favore. Sì. Il ministro Clini questa normativa l'ha fatta approvare, normativa è attiva e purtroppo la burocrazia, la volontà politica ha non realizzato l'insieme delle normative del ministro Clini, per cui si dice chiudiamo Malagrotta ma apriamo un'altra discarica sempre nel perimetro urbano romano. Siccome, lo dico sempre agli ascoltatori, l'Unione Europea vieta di aprire nuove discariche negli ambiti urbani, l'Unione Europea vieta di conferire... Quindi la decisione di Marino tal quale, andrà incontro a un divieto dell'Europa. L'immondizia indifferenziata, aprire una nuova discarica nel perimetro urbano per conferire immondizia indifferenziata è semplicemente illegale. Io ho chiesto che venisse rispettata la normativa del ministro Clini, che è legge dello Stato. Tutto qua. Va bene, dobbiamo chiudere perché il tempo è scaduto. Peccato, grazie peccato. Comunque all'onorevole Brunetta. Buona serata, grazie mille. And now, the good news! Gratta Gratis è il primo scontrino che premia il consumatore. Sul retro di ogni scontrino fiscale è stampato un Gratta e Vinci che può nascondere uno sconto o un premio. L'idea viene da due imprenditori monzesi, convinti che l'incentivo spingerà i consumatori a chiedere sempre lo scontrino. Più che la lotta, poté la lotteria all'evasione. Eccoci qua, hai sentito l'intervista a Renato Brunetta? Lui ha twittato durante l'intervista. Io sono nei momenti in cui non so se abbia la fortuna o la sfortuna di non poter parlare con i politici, essendo qua a fare lo stage. Sì. Comunque vedevo, e lui ha proprio twittato. Cosa ha scritto? Fassina Rosicone produce confusione nell'opinione pubblica. C'è anche a un certo punto, rima. Però, non glielo ho detto perché sennò magari se ne andava. Ho avuto la sensazione che fosse lui un po' a rosicare perché poteva esserci lui magari al posto di Fassina. Fassina come vice ministro dell'economia, addirittura, so, perché certo. Con Fassina si beccettano. Ero interessato di sapere che cosa pensava della restituzione dell'IMU, che lui in realtà aveva promesso che sarebbe stata restituita anche quella del 2012. Questa era la promessa di Berlusconi, sì sì sì. Vabbè, c'era anche la domanda sui finanziamenti al Festival di Ravello, però francamente è poca cosa e quindi eravamo in chiusura, non abbiamo fatto in tempo a farla. Abbiamo i titoli del TG1? Ancora no, tra un attimo li avremo forse. Andiamo con Antonio che ci chiama da Modena, buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo fare una domanda al professore, visto che adesso non c'è più, la faccio a lei, magari al prossimo politico gliela fa domandare. Sì. Come mai la legge è retroattiva? Va bene, la possono cambiare per loro, per la giustizia, per i politici, per i grandi manager, non possono, diciamo, dire, non possono andare a toccare gli stipendi perché la legge non può essere toccata retroattiva. Per Berlusconi idem, che la legge Severino non può essere retroattiva, ma solo per noi cittadini deve essere retroattiva, che ci venga a controllare adesso l'Equitalia, diciamo, cominciano a controllare. Beh, ma se lo stanno chiedendo comunque su questa retroattività, non è che ci sia la certezza che non sia possibile che sia retroattiva, giusto? O mi sbaglio io? Sì, no, sì, ma allora, questa tutte sì. Le volte ogni politico, diciamo, dice che è una legge che non può essere applicata retroattiva. No, no, comunque è chiaro quello che dice. Lei dice se è retroattiva per noi, tutte un sacco di altre leggi sono retroattive, perché non possa essere retroattiva questa legge Severino. Questo grazie, sta Antonio, dicendo. Grazie. E il dubbio è da parte del legittimo cittadino, cioè è un po' come mi viene a fare un parallelismo che non c'entra forse molto, la questione delle super pensioni che non si possono toccare per, secondo la Corte Costituzionale, per i diritti acquisiti. Poi però abbiamo creato gli esodati e quelli sono diritti acquisiti, anche quelli che sono stati toccati. Quindi due pesi e due misure, la domanda dell'ascoltatore. Franco da Pescara, buonasera. Buonasera a lei. Prego. No, niente, io volevo parlare un attimo dell'IMU. Vada. Cioè, all'aver tolto l'IMU è stata... Sì. Un'ottima cosa, perché praticamente ha prodotto, glielo dico perché io sono nel campo immobiliare, ha prodotto una decontrazione della domanda. Quindi della dice che adesso si venderanno più case, che non c'è più l'IMU? Non soltanto si venderanno più case, ma tutto il sistema sì. edilizio si rimetterà in movimento, determinando inevitabilmente una ripresa di tutta. Ma però lei dice, scusi, che c'è già stata la ripresa, voglio dire, l'annuncio è di ieri e voi avete già i dati di una ripresa? Scusi, ma lei lavora nel settore immobiliare? Esatto. Io mi domando questa cosa, ma è possibile che uno decide di comprare o vendere casa in base ai 200 euro 300 euro di IMU che si pagano? No, me lo domando, certo, sinceramente. Glielo spiego. Il fumus boni iuris, cioè a dire... Che è un suo amico? Sì, è un nostro amico. Fin qua è una sigla, Franco. Il fumus bonis iuris è un nostro amico. Sì. Perché da quello parte qualsiasi legge. Poi volevo anche spiegare... Ma ce lo spieghi però. Sì, ecco, ve lo spiego subito. Allora, cominciamo col dire... Io col latino sono messo un po' malino. E va bene, poi se vuole la posso aiutare. Ho la terza media per il momento, poi mi... Però intanto spieghiamo cosa significa, se no parliamo in latino, poi arriva Zecca Garbulli, Manzoni e compagnia bella. Spieghiamo perché l'IMU tolta favorisce la compravendita di case. Perché innanzitutto determina una scopertura in quella che era il blocco psicologico delle persone. Sì, ma però quello che noi ci stiamo chiedendo, su una casa da 1 milione di euro, il fatto di pagare o non pagare 200 euro cambia così tanto? Perché sennò poi parliamo in generale, certo, c'è un costo in meno. Non diciamo le cose per parlare, bisogna avere sapere. La casa non è una casa da 1 milione. Mettiamo una casa, ho fatto un esempio qualunque, non sto parlando di una casa che lei vende. Ma io non mi sto infogliando. Fai parlare Franco, mettiamo una casa a 200.000 euro, una casa piccola, medio piccola. Una casa da 200.000 euro, chiaramente... Il proprietario che compra la casa non è che deve pagare solo quella tassa, deve pagare una congerie di tasse. Il momento in cui... Quindi non è solo l'IMU è una goccia nel mare. Esatto, va bene, Franco, non è abbiamo che deve capito. Pagare l'IMU, grazie, grazie. Le tasse non per la casa. Grazie, Franco. Comunque è interessante, nel senso che è veramente tempestiva questa cosa, perché lui ha chiamato dicendo c'è già stata una detrazione del mercato. L'annuncio è di ieri sera, lui oggi deve aver venduto 186 case, evidentemente. No, complimenti c'è stato a Franco. Qualche telefonata in più, qualche cosa in più nella sua agenzia. Sì, c'è un'agenzia, lei, Franco? In più. Franco? Beh, io mi occupo di affari, quindi non è che c'ho l'agenzia, però... È un po' nel giro, è un po' nel giro. Ecco, esatto. Va bene, quindi, grazie. Guarda, io glielo dico molto chiaramente, io sento no, ma crescere ce l'ha già l'erba. Detto, abbiamo capito, crescere l'erba, perfetto. Dario da Milano, no, è un modo di dire. Se io dico mia mamma si preoccupa. Sì, questo sicuramente esatto. Sì, perché pensa a tutt'altro, essendo tu il soggetto in questione. Dario da Milano. Buonasera. Anzi, un momento, titoli del TG1, poi Dario, titoli. Letta, con cancellazione IMU governo più forte, la possibile decadenza di Berlusconi non influirà sul futuro dell'esecutivo. Motivazioni della sentenza Mediaset, Berlusconi ideatore dell'illecito, leader PDL, decisione fondata sul nulla, ora evitare l'aumento IVA. Epifani su Mediaset, per il PD la giustizia deve essere uguale per tutti, le sentenze si rispettano e sull'IMU soluzione equa. Slitta l'intervento armato in Siria, Londra, prima la parola all'ONU, sabato rientrano gli ispettori, Obama, eventuale attacco sarà limitato. Saron, arrestato l'assassino della gioielliera, quarantenne disoccupato, ha confessato non volevo ucciderla. Sorteggi di Champions, sfida Italia-Spagna, la Juve trova il Real Madrid, il Milan il Barcellona, per il Napoli il Borussia Dortmund. Applausi per il primo film italiano in concorso a Venezia, Via Castellana Bandiera, diretto da Emma Dante, il regista Friedkin, Leone d'Oro alla carriera dice il mondo è al limite dell'estinzione, serve un nuovo Gandhi. Avevamo lasciato Dario da Milano in linea, tocca a lei, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Beh, dopo le ultime cretinate sentite sono rimasto allibito. Quelle di Gabardini? Le mie, eh? Sì. Le chiedo scusa. O no, quelle no, di non Brunetta. Le sue, quelle di quell'asino che gli ha telefonato. L'ascoltatore, sì. No, Franco, quello che dice che cresce l'erba. Ma sì, Dio sia incredibile. Senta, io chiamavo per questo, perché... Ma un momento però, scusi Dario, perché... Ma devo io credo dire... che veramente no, ci sia no, cambi sul mercato, no, mi perché sembra ieri, un po' troppo tempestivo. Ieri, anzi, forse stamattina, il ministro Giovannini, intervistato dalla RAI, ha espresso esattamente questo concetto, ha detto abolire l'IMU sarà un volano per far ripartire tutta l'economia, perché bla bla, esattamente quello che diceva no, Franco. Ma quindi concetto... non diamo del coglione a Franco, perché il concetto c'è. Certo, faceva ridere che lo dicesse che già oggi si è no, visto il movimento. Uno già oggi, viva capita questa serie. Stacks, perché in un modo o nell'altro o ammazza chi affitta, perché io evidentemente... poi esprimo anche il dubbio sul fatto che poche centinaia di euro possano veramente muovere il mercato immobiliare. Questo lo direi anche al ministro Giovannini se l'avessi davanti, non solo a Franco. Dario, prego, tocca a lei. Sì. Anche se pago 1000 euro all'anno di IMU vuol dire che ho 500.000 euro, perché visto che le banche non mi danno i soldi, no, devo averli io, e se li ho, 1000 in più, 1000 in meno, frega niente. Io abito a Milano, vivo a Milano, so quanta gente c'è che ha questi soldi e non li ha. Ho amici che fanno quel mestiere sì. E non stanno vendendo più un accidente. E non le vendono perché non si paga più 200 euro, che poi si pagheranno da gennaio. No, in ogni caso. Va bene. Io non volevo più parlare di non questo. Non era su questo? Volevo su cos'era? Solo far arrivare, tramite la radio, un qualcosa a Beppe Fioroni, che mi sembra uno di quelli che stanno rovinando... tutta la sinistra, perché lui non è di sinistra, è un democristiano. Ma quando io dico, o quando lui dice, che se si fossero alleati con Monti anziché con Sam, sì. No, avrebbe al DS un sacco di voti in più, allora o pensa che i diessini, magari quelli storici, sono veramente una massa di imbecilli che votano qualsiasi cosa, oppure non avrebbero votato. Io ho votato perché era sinistra, no? Non perché c'era Monti. Se ci fosse stato Monti io non avrei votato. E con me penso qualche altro centinaio di migliaia di votanti del PSI, dei DS. No? Grazie. Questi signori qui che stanno là nei loro palazzi, sì. No? E fanno i conti sulla carta, no, andassero un po' a sentire la gente nei circoli dei DS. Sì, non solo, grazie Dario, non soltanto spostandosi al centro il PD avrebbe probabilmente avuto un'emorragia di voti a sinistra, ma anche stando ai conti, io l'ho detto subito, di quello che poi è successo alla Camera e al Senato, Monti ha portato a casa lo stesso numero di deputati di Vendola e quindi sarebbe stato un influente comunque anche avendo preso l'8% e Vendola il 3,5%. Monti, pur sommandosi alla coalizione di centrosinistra, era un influente, quindi quello che ha detto Fioroni era un auspicio, ma non poteva essere, come dire, una previsione politica basata su qualche fatto. Cioè, se avessero preso più voti di quelli che hanno preso, potevano vincere le elezioni, ma alleandosi con questi voti non le vincevano. Credo almeno, poi sai, tutto opinabile in base anche al sistema elettorale. Però. Francesco da Cagliari, buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Visto che stiamo parlando di elezioni, siccome sì, avevo chiamato per ricordare appunto che Berlusconi aveva promesso nel 2012 la restituzione dell'IMU 2012, addirittura dicendo che l'avrebbe messo in tasca sua se non fosse riuscito nell'intento. Nessuno ne parla. Sembra che abbia promesso solo di abolirla per questa. No, volevamo anche chiederlo a Brunetta, poi non c'è stato il tempo. Mi sono dimenticato. No. Quando si fanno queste domande scappano. Cioè, sono personaggi delegittimati anche dal voto, perché hanno tutti, sono in Parlamento con dei voti residuali, non sono voti veri come potrebbe. Ma lei cos'ha questo beep che c'è a fianco a lei, Francesco? È una bomba che sta per esplodere? No. No. Ci tranquillizzi in qualche modo? No. Siccome già quando ero intervenuto con lei a Capodanno era esploso il petardo. Sempre con me? Dopo l'intervento di Ma lei chiama solo quando ci sono io? No, chiamo anche. Chiama anche altre volte, è un abitué. Va bene, grazie Francesco, buona serata. Volevo dire che sì, è assurdo, volevo fare un endorsement sul Porcellum. Perché il Porcellum, la porcata, non è tanto nella legge, che è una legge bipolare. La porcata è che il bipolarismo non esiste. Ma no, ma Francesco, ma quale una legge bipolare per il Porcellum? Una legge è abbastanza offensivo anche legge bipolare, direi. Adesso chiamiamo il professor Kelly. Sì, dico, è una legge che oggi si sente bene, domani si sente malissimo, va in giro, urla un sacco di cazzate e poi dopo sta bene, però dopo dice che magari è anche Napoleone. Perfetto, è una legge bipolare. No, ma è proprio così, tra l'altro, perché al Senato dice una cosa, alla Camera dice un'altra. Esatto. Grazie Francesco, grazie. Buona serata. Mario da Verona adesso. Eccomi qua, pronto? Buonasera. Sì. Buonasera. Ecco una cosa, sento con molta soddisfazione che gli ascoltatori di sinistra stanno rosicando la grande. Rosicchiando? Anche rosicchiando, perché comunque sono le 8:10, l'ora di cena. Se mangia poco, due olive. Dalla rabbia perché stanno inghiottendo fiele. Adesso naturalmente tutti il qualunquismo nazionale dirà che ci sono due tasse invece di una, in realtà se sono di due tasse se ne fa una, quindi fai così la signora. L'importante è la quantità di soldi, comunque, non il numero di tasse. La quantità di soldi, ma lì dovranno vigilare, io su questo sono un po' meno ottimista dell'onorevole Brunetta, che i sindaci non aumentino troppo le. Diamo già la colpa ai sindaci. Forse è per quello che quelli di sinistra dicono, ma forse non è che proprio sia stata fatta una gran cosa. Perché loro naturalmente sono per l'aumento della spesa, i loro sindaci uguali. Ma no, chiunque vogliono è contento di pagare meno tasse, non è che c'è qualcuno che invece le vuole pagare di più. Però se in realtà hanno semplicemente dato un altro nome, diciamo, non è che stiano tanto rosicando, stanno ridendo. Quelli di sinistra non sono solo sul versante di chi paga, ma anche sul versante di chi riceve. Sono dipendenti pubblici, sono inquilini di case popolari, è tutta gente che in qualche modo mangia con la politica. Ma gli inquilini sì. Vabbè, Mario, sì. Tutto sommato lei ha chiamato allora, per questo o voleva aggiungere qualcos'altro? Volevo aggiungere qualcos'altro, certo. Aggiungiamo. Ce ne sarebbero mille cose da una. Dire. Aggiungiamone una. Iniziamo con una. Questo è l'essenziale, insomma. Va bene. Due tasse se ne fa una. Poi vigileremo che i sindaci non facciano troppe porcherie. Vabbè, l'importante è che di due tasse se ne faccia una. Certo. Sì, va bene. Speriamo di pagare un po' meno. Grazie, sennò Mario, non serve grazie. Niente. Quello dipende dai sindaci. Buona serata, grazie. Matteo da Milano. Sera. Buonasera. Ascoltando buonasera la vostra trasmissione sì, e i tantissimi interessanti interventi, diciamo che mi apro a 2000 riflessioni, ma per questioni di tempo andrò subito al punto. Per quanto riguarda le boutade di Violante, per esempio, e quant'altro, rifletto su questo. Parliamo sempre di casta dei politici. Io sono convinto del fatto che, in fin dei conti, cane non mangia mai cane. Per cui, volente o nolente, sono tutti quanti più o meno collusi con la Ser Berlusconi, per come la vedo io. Io sono un ex elettore di centrodestra, sono rimasto allibito, ormai rassegnato, dalla boria di certi personaggi, come una Santanchè, come un Brunetta e quant'altro, che per le istruzioni che, a mio avviso, hanno imparato a memoria, le istruzioni che ha dato a loro il loro capo, sì, hanno imparato questa manfrina sostanzialmente dell'IMU, di Berlusconi, che in fin dei conti non può essere condannato perché rappresenta milioni di italiani. Vorrei ricordare a queste persone che io, come ex elettore di centrodestra, non mi sento per niente rappresentato da un condannato, ok? Questa cosa qua, tanti giornalisti, tanti fiori di giornalisti, non hanno l'arguzia di obiettarlo quando intervistano queste persone. Guardi, io, invece sì, perché è chiaro che l'elettorato si è molto frastagliato rispetto a come era prima, per cui c'è stata un'emorragia di voti dal PDL, anche per le condanne di Berlusconi, anche per tutto quello che è sotto gli occhi, quindi questo è stato detto, come e no? Poi è un'opinione comunque, nel senso che anche dire a Brunetta non pensa che forse anche gli elettori di centrodestra non si sentano rappresentati da un condannato, lui risponderà no, secondo me non è questo il problema, anche perché lui è condannato ingiustamente, quindi è un po' inutile chiederglielo, ecco. And now the good news. Generi alimentari in cambio di rifiuti. Da qualche mese in tutti i comuni delle Alte Madonie in Sicilia sono comparsi gli Ecopunto, le botteghe del baratto, dove è possibile scambiare materiali riciclabili con generi alimentari di prima necessità. È un modo per risparmiare e fare bene all'ambiente. Ricevere un rifiuto da queste parti fa solo piacere. Enrico da Bologna, buonasera. Tocca sì, a lei. Buonasera. Sì, buonasera. Allora, volevo solamente dire una cosa. Premesso che è abbastanza presto per parlare, perché poi bisognerà attendere, diciamo, degli elementi più concreti. Però a me sembra, per come si sta configurando questa sì, nuova servizio. Si sbilanci, si sbilanci. Sì, che come al solito lo Stato, diciamo, da una parte dà e da una parte riprende immediatamente quello che è preso, no? Sì. Perché si parla di abolizione dell'IMU, ma l'IMU solo sulla prima casa, quindi quello che succederà è che quello che viene tolto ai proprietari di prime case verrà ripreso dalle seconde case, dove si pagheranno doppiamente le tasse, perché i proprietari continueranno a pagare l'IMU sulla seconda casa e gli inquilini dovranno pagare la service tax, quindi sostanzialmente tutto il peso dell'IMU sulla prima casa verrà spostato sulle seconde, ripartito tra proprietari e inquilini. Vorrei far presente che in Italia ci sono una categoria di persone alle quali appartengo anch'io, che sono proprietari di una seconda casa senza avere la prima, perché io mi sono spostato. Questo è uno dei casi strani della vita che possono capitare. Ma come fa, sì, scusi, proprietario di una seconda casa, però se è l'abitazione principale, credo che ai fini dell'IMU conti quello, non no, tanto. No, la prima, no, no. Lei è in affitto in una casa, ha comprato un'altra casa che affitta, giusto? Mi sono dovuto spostare per lavoro. Sì. Ok, quindi non vive nella sua casa, certo, di proprietà. Non, certo, vivo nella mia casa, che è diventata seconda casa, quindi, certo, io ho monoreddito. Quest'anno ho pagato 1.600 euro di IMU e in più dovrò pagare anche la service tax per la casa in cui risiedo. Però l'IMU non la paga più. E poi di questa service tax in realtà no, la continuerà a pagare perché è la seconda casa. Ah, perché è la seconda. Beh, però ne paga solo una, però, invece che pagarne due. Ha detto Brunetta che tutto, sì, tutta la tassazione, ma non perché l'ha detto Brunetta, perché però l'ha precisato in effetti, sulla casa convergerà in questa service tax. Quindi è veramente tutto da vedere. È veramente tutto da vedere. Il rischio che sulle seconde si paghi, sì, doppiamente, si paghi l'IMU sulla seconda casa e la service tax. Questo è va il bene, rischio che io vedo. Grazie Enrico. Grazie. Nulla. Dove andiamo? Andiamo a Franco da Brescia. Buonasera. Buonasera. Posso dire qualcosa? Ma che mi importa, ma che me frega. Ma tanto siamo sempre avanti, avanti. Ma finisca la canzoncina, era bellissimo, un momento radiofonico straordinario. Ma sì, ma chi si porta ce ne frega, ce l'ha messo ancora in quel posto. Io sono elettore del PD, sì, ma l'ha messo ancora in quel posto. Chi gliel'ha messo in quel posto? Ieri sera con la storia dell'IMU. Ma chi gliel'ha messo in quel posto? Letta? PD, sì, Letta, e mai a particole. Perché? Vecchio DC. Perché gliel'ha messa in quel posto? Lei è della teoria delle tre carte, delle tre tasse, cioè no, tolta no, una, cioè, messa un'altra. Dunque, la storia dell'IMU, io faccio l'agente di commercio, sì? Io pagavo l'IMU sulla mia casa, 130 euro all'anno, Adesso mi trovo a pagare tasse sopra tasse. A fine dell'anno ho pagato 400 euro. Beh, ma questa è ancora la cosa vecchia, nel senso che non sappiamo ancora che cosa si pagherà di service tax. Non è che può... possiamo già lamentarcene? Anch'io divento vecchio. Sì. Tutti diventiamo tutti vecchi. Tutti uguali, ogni anno sì, un anno. Però chi paghiamo siamo sempre noi. Dopo quattro mesi che hanno sempre detto che l'IMU va pagata, hanno dato le braghe per non far saltare il governo. Tre anni fa io lavoravo in una ditta, ho fatto un favore a un ragazzo, onestamente, il mio datore di lavoro ha venuto a sapere che ho dato il materiale a un ragazzo, bolla regolare, fatto bolla regolare, è venuto fuori il mio titolare e mi ha licenziato. Franco, grazie, però non abbiamo più tempo, grazie per il suo intervento, adesso invece è il momento della bella storia di questa sera. Bardini, tu che sei un frequentatore di bar, sei un noto frequentatore di bar, l'hai detto anche prima a scuola. Non posso negarlo, non posso negarlo. Allora, qua c'è un bar particolare dove si va anche a cercare lavoro, a fare il curriculum, a fare incontri con gli esperti del personale. È un'iniziativa nuova, si chiama Work Coffee e noi salutiamo Luigi Ronda che è responsabile nazionale di questa iniziativa. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'attenzione che avete al nostro progetto. Un progetto che è nato qualche tempo fa, ci sono già due punti aperti a Bergamo e a Tolmezzo in provincia di Udine, tra 15 giorni aprirete a Piacenza e poi in previsione anche a Milano. E che cosa state aprendo? Di cosa si tratta? Ce lo racconti. Work Coffee è un'esperienza del tutto nuova, del tutto innovativa. Si tratta di una catena di bar, bar del tutto tradizionali, dove chiunque può entrare, bere un caffè, prendere un aperitivo e passare qualche tempo con chi desidera. Dove però, oltre all'attività tradizionale di pubblico esercizio, si fa anche qualcos'altro, che è quello che poi ci qualifica. Nei nostri work coffee noi diamo anche servizi per il lavoro destinati in particolare a chi sta cercando occupazione. Questo è quello che... ai disoccupati. Esatto. Ecco, servizi come aiutare a fare il curriculum, incontri con i responsabili delle risorse umane delle aziende, insomma, cose così. Proprio questo, proprio questo. Noi, Work Coffee nasce da un gruppo di società che da 20-25 anni lavorano per i servizi al lavoro. Sì. Società che si occupano di formazione o di intermediazione. E abbiamo capito una cosa, che la ricerca del lavoro è un lavoro. La ricerca del lavoro non è una cosa che si improvvisa. E troppa gente in Italia oggi né studia né lavoro e soprattutto non è inserita in percorsi di ricerca del lavoro. Ma le agenzie, scusi Ronda, ma le agenzie quelle per la ricerca del lavoro, che insomma c'è state varie leggi, ci sono state liberalizzazioni, eccetera, non funzionano molto. Cioè voi vi posizionate su questo mercato però con l'idea di svecchiare forse un po', no? Di aprirvi ai giovani. Esattamente, di rendere più accessibile. Ma c'è qualche caso da raccontare? Qualche caso andato a buon fine? Ce l'ha una bella storia da raccontarci? Sì, volentieri. Beh, innanzitutto mi piace precisare questa cosa. Nei Work Coffee si cerca lavoro, si è aiutati a cercare lavoro perché Work Coffee dà strumenti per la ricerca del lavoro. Ma si può bere nel frattempo, mentre si cerca lavoro ci si può anche ubriacare. Subito pensi no? A quello. Vabbè, ma no, ma si va a fare il curriculum, si beve poco. Cuba perché il curriculum, uno si distrae. No. Si può prendere un buon caffè, ma non è ovviamente obbligatorio. Una cosa mia, certo. Mi scusi. Cioè, tipo una birra si può bere a Work Coffee? Sì, una birra del buon vino. Volevo sapere se consumavano di più o di meno nel momento che uno sta cercando lavoro, perché uno mi sembra un buon momento, sia di disperazione magari, sia di gioia, di perché gioia uno dopo. Ha trovato lavoro e festeggia. Mi scusi, l'ho interrotta, racconti il bell'esempio. No, mi piacerebbe precisare questa cosa. Sì. Noi diamo servizi gratuiti, ovviamente, a chi sta cercando occupazione. Cerchiamo di dare strumenti per rendere la ricerca dell'occupazione efficace a persone che appunto vivono un momento di difficoltà. Sì. E lo facciamo creando, e questa è la nostra idea, un ambiente informale, un ambiente conviviale, un ambiente più dove chiunque si possa sentire più a suo agio. Chi cerca lavoro è abituato a girare per uffici grigi, istituzionalizzati, la ricerca del lavoro è un... Guardi che per due minuti dobbiamo chiudere però. No, le belle storie sono queste. Penso in particolare al Work Coffee di Bergamo, che è quello aperto da più tempo. Sì. Esatto. In un anno sono passate ai nostri aperitivi in lingua, sì? Di quell'azienda, più di 700 persone. Ah. 300 sono le persone che si sono rivolte ai nostri servizi, sì? Gratuiti per cercare di, sì? Alcune di queste persone, tante di queste persone, hanno capito che era il momento di migliorare la propria formazione e quindi sono rivolte al mercato dei servizi per la formazione. Quindi, insomma, si innesca qualcosa. Altre persone hanno avuto l'occasione di incontrare l'azienda, sì, WorkCoffee, e hanno potuto stabilire un canale diretto con l'azienda. Va bene, senta, in 30 secondi, che poi dobbiamo davvero chiudere, le voglio, sì, chiedere, c'è questa ripresa oppure no? Voi che siete lì in mezzo alla situazione, perché si parla di una ripresa, fiducia dei consumatori, qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no. Ci sono molte persone che stanno cercando il lavoro, molte, moltissime, questo sì. La che è un bel segnale o no? Che è un segnale che va interpretato. In questo momento non la stiamo ancora toccando, dal nostro osservatorio. Va bene, è ancora anch'io, troppo presto. Anch'io sto cercando lavoro, vorrei sottolineare, perché domani è l'ultimo giorno, qui sono uno stagista, a Radio 24. Anche altre radio, così vai a World Coffee appena apre a Milano. È il così. Posto migliore dove andare a cercare lavoro, perché se ti va bene o se ti va male... Ti fai una bevuta, grazie, esatto. Grazie a Luigi Ronda, responsabile di questa iniziativa, anche per stasera è tutto. La penultima, domani l'ultima. Insomma, poi si può fare, andrà avanti nel weekend, il sabato, la domenica mattina, vedremo in che orari, in che forme. Intanto grazie a Riccardo Poli, a Laura Marchesi, a Andrea Piana, Valeria Bernardi in regia. Noi ci risentiamo domani, adesso Maurizio, Carlo Gabardini. Che grazie dire? A tutti, soprattutto, e anzi ci ascolta in podcast. Buona serata.